Va ora in onda Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Glorioso. Allora, ho voluto autointrodurmi con questo brano, con la batteria che io adoro, tra l'altro. Stavo parlando dietro i microfoni, microfoni spenti, con degli ospiti che sono arrivati e ci hanno appena raggiunti, e avrete modo di vedere questi ospiti e sentirli, perché sono eterogenei ma anche coloriti, se vogliamo. Poi capirete di cosa sto parlando. Intanto vi auguro a tutti quanti voi un buongiorno, ben ritrovati con l'ennesima puntata di Carta e Penna. Se la regia mi fa la cortesia, anzi ringrazio la parte tecnica Santi Genovese di abbassarmi un attimo la musica, ma lascialo in sottofondo perché mi aiuta a parlare. Dicevo, ben ritrovati all'ennesima puntata di Carta e Penna, che vi ricordo sempre, sì, e sono Monello, mi fa le gestacci, insomma, mi vuole menare, mi fa così con le mani. Dicevo, giornata un po' uggiosa, ennesima puntata di Carta e Penna. Vi ricordo che va in onda ogni giovedì, sempre alla stessa ora, mezzogiorno, mezzogiorno e 10, insomma, minuto più, minuto meno. Oggi abbiamo tanti ospiti in studio e quindi niente telefonate. Di solito voi sapete che io mi collego con ospiti anche di levatura nazionale, ma telefonicamente. Speriamo che molti di questi ospiti li possiamo avere qui in studio qualche volta, a cominciare da Danilo Sacco, che ho avuto il piacere di intervistare a Castelbuono, e quindi averlo qui nei nostri studi per capire meglio il personaggio Danilo, perché sta crescendo in maniera esponenziale come singolo, non più come appartenente a quel gruppo famoso che ha festeggiato il 50° anniversario della fondazione. Stiamo parlando dei Grandi Nomadi. Altri personaggi verranno ancora veicolati, quindi giovedì sintonizzatevi sempre con Carta e Penna, perché ci saranno sempre sorprese. Poi, per chi volesse riascoltare la replica domenica alle 9:30 di mattina, oppure se vi perdete la replica, potete sintonizzarvi sul nostro sito www.crmpiradio.it, andare sulle repliche podcast e lì trovate tutte le puntate delle trasmissioni del palinsesto di CRM e Piradio. Chi invece volesse seguirci via etere, basta che si sintonizzi sui 101 e 400 in modulazione di frequenza. Allora, tante discussioni ci sono sulla graticola stamattina, ci sono delle novità. Il governo centrale ancora stanno cercando, soprattutto il Presidente della Repubblica sta cercando di sondare i terreni. I mass media ieri sera, facendo zapping col telecomando con i colleghi della carta stampata, non solo davano alcune spiegazioni di come si potrebbe, usiamo il condizionale doppio, evolversi tutta quanta la situazione politica nazionale. Certo, non siamo molto felici di quello che potrebbe prospettarsi, ci auguriamo che al più presto si costituisca questo benedetto governo, anche perché con quello che sta succedendo dietro la nostra porta, stiamo parlando di Cipro, stiamo parlando di Atene, non vorrei che ci fosse un effetto domino e quindi la cosa coinvolgesse più ancora, che già siamo coinvolti abbastanza con la depressione economica, non travolgesse totalmente quella che è la nostra amata nazione, soprattutto la nostra amatissima Sicilia. Cos'altro dirvi? Una novità di rilievo, che il Presidente della Regione Crocetta ha posto in essere il suo mandato, nel senso di bloccare e sciogliere totalmente le province. Si cercherà di capire nel tempo cosa succederà, con che cosa verranno sostituiti i vari presidenti di province, i vari assessori e consiglieri. Sicuramente ha già la formula in tasca e quindi sta cominciando, in mezzo al cammin di nostra vita. Speriamo che arrivi in porto sia questa come quella del decurtamento del 50% del gettone che viene erogato mensilmente ai consiglieri e agli assessori della regione siciliana. Insomma, ci sono delle cose che fortunatamente la politica ha cominciato a capire, partendo dalla base che ha dato un grossissimo scossone non votando per alcuni partiti, escludendo capistipiti di da secoli seduti sulle poltrone, sugli scarni più alti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Tantissimi giovani, grazie ai grillini, ma anche nelle altre formazioni politiche, sono presenti con idee nuove, con la freschezza dei giovani, con la voglia di fare dei giovani. Questo è una cosa positiva. Da tutto questo dovrebbe scaturire, insomma, un futuro un po' più sereno, non diciamo roseo, ma diciamo sereno per le future generazioni che verranno subito dopo noi. Detto questo, io mi fermo un attimo, ma prima di dare via alla regia volevo ringraziare, salutare gli ospiti, non soltanto loro, ringraziare voi che ci ascoltate, ma ringraziare gli sponsor, perché senza senza di loro questi programmi sulle emittenti radiofoniche e televisive private non potrebbero andare in onda. Noi, come tutti sapete, non andiamo a prendere soldi da nessuno tranne che da chi ci appoggia economicamente, chiamatesi in gergo sponsor. Volevo ricordarvi intanto, anche su Facebook siamo presenti, quindi potete interagire con noi, oppure sul nostro sito potete vederci e sentirci. Vi ho dato già prima il sito www.crmpiredio.it, quindi siete a diretto contatto quotidiano con noi, e noi siamo lieti di avervi come amici anche su Facebook. Scrivete e soprattutto seguiteci, che è più importante. Volevo ringraziare un'azienda che è straordinaria, Salamone Genovese SNC. Perché vi voglio ringraziare? Perché sono intanto all'avanguardia, soprattutto per quanto attiene tutto quello che serve per la campagna, dalle motoseghe per esempio alle motozappe, per l'irrigazione, anche se piove, insomma, ma tra qualche mese comincerà ad arrivare la primavera e poi l'estate. Con l'estate la siccità, bisogna che i contadini che fanno l'orto, insomma, si attrezzino, e quindi bisogna andare a trovare questa azienda Salamone Genovese, dove se mi serve il motosega, e a me serve, mi vado a prendere un bel Alpine, oppure il motozappa che mi si è guastato, insomma, vado a comprarmi anche quello della Ford. E poi ci sono i pezzi di ricambio, ma c'è tutto quello che necessita per l'impianto a pioggia, gocce, tubi di irrigazioni e ala gocciolante, questo per evitare che io mi metta il tubo in mano a girare per la campagna ed innaffiare le cose. Quindi poi c'è la raccorderia varia, che è importante, oppure un aspetto molto bello che a me piace molto, anche se ci stiamo avvicinando alla primavera, le stufe a pellet a legna con detrazione, ricordate bene, con detrazione fiscale del 50%, la Nordica Ex Trasflarm. Entro il 30 giugno, quindi se entro il 30 giugno andate a comprare da Salamone Genovese una stufa a pellet o a legna, avete l'abbattimento del 50%, ma è entro il 30 di giugno. Quindi mi raccomando, se volete ulteriori informazioni non dovete far altro che andare a fare un numero di telefono, oppure semplicemente, ancora meglio, di telefonare e vedere il sito www.salgen.it, info@salgen.it, a Cerda. Mi raccomando, Salamone e Genovese SNC. Il numero di telefono per le vostre telefonate, per le vostre richieste, anche per un preventivo gratuito, 091 899 1350. Do la linea un attimo alla regia per una brevissima pausa musicale, se la regia è pronta. Sì, ma lui è sempre male, mi scatta Genovese, è una cosa straordinaria, diciamolo. Ma allora, do la linea un attimo alla regia, al rientro cominceremo a parlare di questo grande sport che approda a Castelbuono con una gara di levatura internazionale. Linea alla regia. E allora, rieccoci rigorosamente in diretta, sempre Filippo Glorioso ai microfoni di CRM Radio. Stiamo introducendo l'argomento principe della giornata, poi parleremo di altre cose che sono altrettanto importanti, come lo sport. Allora, accanto a me c'è Daniele Adamo, che ringrazio e saluto, gli do il benvenuto in trasmissione. Lui è di Castelbuono ed è il presidente delle Madonie MTB, quindi Mountain Bike Resort di Castelbuono. Perché ho voluto qui il presidente, che peraltro è giovanissimo, Daniele, ci diamo del tu, sì, anche se non mi piace essere formale in radio, mi piace molto l'informalità. E allora, Daniele, intanto una cosa importante, tu sei innamoratissimo delle mountain bike. Sì. Mi dicevi prima fuori onda, li monto, li smonto, ma sempre mountain bike dobbiamo parlare. Quando ti nasce l'amore per questa bicicletta così particolare? L'amore è iniziato in Inghilterra, quando ho avuto un periodo, sono stato là per un po' di tempo e ho iniziato a scoprire questo sport. Poi sostanzialmente sono tornato di nuovo qua in Sicilia e ho continuato a fare questo sport. C'è un elicottero. Allora, c'è un elicottero sopra la nostra testa che sta decollando, ma non è nulla di grave, sono le cose della diretta che succedono. Qualcuno ha toccato qualcosa nel microfono, insomma, inavvertitamente. Vabbè, ci scusiamo con i radioascoltatori, comunque è tutto a posto. Allora, stavi dicendo, tornato da Londra, ho continuato a fare questo sport qua, poi ho avuto la fortuna di conoscere altre persone, tanta bella gente in questo ambiente, e praticamente è nata una collaborazione con il Parco delle Madonie, che ha iniziato a costruire un po', scopri la natura in bici, se vogliamo. Sì, no? Diciamo la mountain bike è il modo secondo me migliore per vivere la montagna a 360 gradi, viverla sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista del divertimento, perché con la bici uno può scoprire posti che difficilmente o se non a piedi sono raggiungibili. O a cavallo, o a cavallo, secondo, esatto. Qui il tracking, e a cavallo bene. Bisogna sempre vedere, avere dei sentieri, del sentiero, certo. Sì. Senti, quali sono le caratteristiche tecniche di questo tipo di bicicletta, per chi non è addetto ai lavori, così per da far capire, certo, magari per aumentare gli amanti, sì, sì, della, sì, mountain bike? Allora, no? Praticamente le bici si differenziano moltissimo per le discipline. Ci sono discipline più o meno pedalabili, come il cross country o il trail riding, e poi discipline più incentrate sulla discesa, che fanno parte di un gruppo abbastanza ampio che è detto gravity. Quello che noi faremo ora prossimamente a Castelbuono è l'enduro, che è una disciplina che prevede risalite pedalate e discese cronometrate su dei sentieri realizzati ad hoc per questa disciplina. Allora, quindi, ti fermo un attimo, sì. Quindi tu hai dato già l'input a quella alla domanda che devo farti successivamente, sì. Quindi c'è questo primo appuntamento importante di levatura internazionale di questa, sì, gara. Come siete arrivati a portare proprio a Castelbuono una gara di questa levatura, ma soprattutto internazionale, non è regionale o nazionale? Allora, tutto è nato dalla passione fondamentalmente, perché all'inizio abbiamo iniziato a fare tante manifestazioni di levatura nazionale, anche grazie a collaborazioni con delle riviste del settore. Poi lo scorso anno, dopo Ipsicap, che è una gara di downhill che facciamo abitualmente a Castelbuono, abbiamo avuto l'opportunità di invitare il campione del mondo di enduro, che è Jerome Clements, il quale, che è venendo a Castelbuono, si è innamorato del nostro posto, ha visto il bel lavoro che avevamo fatto dal 2009 fino adesso e ha deciso di portare il Bluegrass Enduro Tour a Castelbuono come open race del primo circuito internazionale della serie. Naturalmente tu parli in tecnocrate, cioè con le giuste come dire, apostrofazioni di quello che poi in gergo tecnico sono le varie tipologie di gare, sì, o le varie discipline di gare all'interno, sì, sì, della che ci permettono di usare la mountain bike. Però bisognerebbe un attimo spiegare alla gente, anche perché chiaramente non tutti capiscono l'inglese. Allora, enduro che significa? L'enduro è una disciplina della mountain bike che è nata ultimamente, diciamo ha un paio di anni, se non tre anni, che si inizia a parlare di enduro. Praticamente sono delle bici... Lo si usa sul motocross anche, sì, questo lo si modo usa di... perché è molto simile, diciamo... appartiene, diciamo, alla stessa tipologia di competizione. Sostanzialmente si pratica con delle bici che non hanno un'escursione elevata come quelle da discesa, che sono più indicate proprio per fare downhill o freeride, ma hanno un'escursione più contenuta e consentono di poter essere ancora pedalate. Però si svolge sostanzialmente in delle risalite che non sono cronometrate, ma devono essere fatte in un certo tempo limite, sì, mettiamo, supponiamo un'ora. E poi delle discese che vengono invece cronometrate, e dove viene preso il tempo che poi andrà a fare proprio la prestazione dell'atleta in gara. Punto di domanda: se il ragazzino di 10-11 anni volesse cominciare ad approcciarsi con questa disciplina sportiva, sì, voi pensate di, a parte le gare internazionali, sì, dove arrivano campioni dalla Norvegia, dalla Francia, dalla Spagna, cioè questo è poi in buona sostanza una gara, sì, internazionale, sì, quella, sì, quindi i migliori, ma anche ci sarà gente meno brava, ma che si cimenterà, insomma, giusto per il gusto di partecipare a una gara. Ma la domanda che mi sorge spontanea è questa: a Castelbuono dovrebbe o potrebbe, eventualmente, sempre il condizionale d'obbligo, sorgere una scuola di mountain bike per i bambini che vorrebbero accostarsi a questo nuovo modo di far bicicletta? Speriamo. O di vivere la natura? Speriamo sia possibile. Diciamo che ancora viviamo una fase di start-up dell'associazione, di tutto l'amplesso del, come si chiama, della bici sulle Madonie, sì. Però quello che noi ci poniamo è soprattutto in questo periodo far scoprire la nostra terra anche all'estero, e già noi con questa manifestazione possiamo prendere un posto di rilievo anche in un contesto internazionale, anche perché ancora le Madonie dal punto di vista della mountain bike non sono conosciutissime. Quello che speriamo di fare nei prossimi anni è senza dubbio il fatto di organizzare delle scuole, organizzare diverse manifestazioni che possono anche attrarre i giovani e tutti gli appassionati, diciamo, della montagna in generale, tutti gli appassionati che amano la natura, amano vivere la natura, possono farlo anche in sella a una bici. Perfetto, allora io prima di accomiatarti un'altra domanda te la voglio fare, nel senso di spieghiamo meglio alla gente quando, in quali giorni, in quali mesi sarà fatta questa manifestazione, questa gara internazionale a Castelbuono, in modo tale che la gente cominci a prepararsi magari a seguirci fisicamente, non tramite i mass media, ma a essere presenti sul circuito che delle Madonie, dove si svolgerà questa gara. Quindi quando avete pensato di farla la gara? Allora, la gara si svolgerà il 30 e il 31 di marzo, a Pasqua esattamente. Quindi siamo la prossima settimana, si svolgerà su due giornate. La prima giornata, il sabato, ci sarà una gara dentro le strade di Castelbuono, proprio nel paese, che servirà, diciamo, un po' da presentazione del circuito, perché essendo anche Castelbuono l'open race della serie internazionale, ci sono tanti atleti che dovranno presentare le nuove bici, i nuovi sponsor e tutte queste altre cose. Poi la domenica invece la gara si sposterà in montagna e prenderà il via da Piano Sempria. Da Piano Sempria si salirà fino a Cozzo Luminario, una delle vette più alte delle Madonie, a 1500 metri, e si inizierà a scendere per i principali sentieri del primo nucleo del Madonie MTB Resort, perché è un progetto a lungo termine, il Madonie MTB Resort, che vuole fare lo stesso, diciamo, di quello che si è fatto a Castelbuono anche negli altri paesi del comprensorio Madonie, in modo tale da creare una rete sentieristica montana che possa collegare tutti i toponimi delle varie città madonite. Ok. Allora, siamo stati abbastanza esaustivi, abbiamo spiegato di cosa stiamo parlando. È una bicicletta particolare, dove poi tramite questa bicicletta si fanno diverse discipline sportive, ma l'aspetto più importante è che c'è questo contatto, questo riscoprire la natura tramite la bicicletta, e quindi avete pensato bene di veicolare all'interno del Parco delle Madonie, di concerto col Parco delle Madonie, quindi avete direttamente coinvolto anche il presidente del parco. E quindi il 30 e il 31, quindi Pasqua e Pasquetta, se non ho capito male. No, il sabato di Pasqua e la domenica, cioè il sabato e domenica. L'antivigilia di Pasqua, quindi il giorno prima di Pasqua e poi per il giorno di Pasqua. Due giornate di gara. Allora, intanto io ti devo ringraziare perché ti devo ringraziare perché dai la possibilità di scoprire uno sport che spesso si vede in televisione e invece lo stiamo portando a Castelbuono. Castelbuono è sempre stato un precursore di molte cose e anche questa è una cosa molto bella, molto carina, costo zero, voglio dire, non andiamo ad impattare con situazioni tipo le macchine da truccare, il motore da truccare, insomma, bicicletta, spendi i soldi eccetera e poi vai a fare la gara. La seconda cosa importante è che tramite una disciplina sportiva si può ancora di più disciplinare, scusate la cacofonia, si può disciplinare ancora la gente ad avere più rispetto verso la natura, perché ci consente poi di viverla a pieni polmoni, ecco, quello è. Quindi io ringrazio il presidente Daniele Adamo, giovanissimo tra l'altro, e i suoi colleghi dell'associazione. Spero che facciate dei proseliti per il futuro e soprattutto che si possa creare a Castelbuono una scuola, perché no, di enduro e di altre specialità che con la mountain bike si possono fare, affinché i ragazzi vengano tolti dai bar, vengano tolti dalla droga e ancora una volta lo sport. Ce l'auguriamo anche noi. Ecco, questo vi fa onore, siete giovanissimi, e quando a me dicono spesso i picciotti ste tempe, no, io ho un'ammirazione straordinaria perché siete intelligenti più di noi alla vostra età, siete ragazzi pieni di fiducia, vi muovete, cercate di far qualcosa, cosa che invece quelle della mia età ormai non fanno più, perché siamo un po' obsoleti, ci siamo atrofizzati il cervello, e quindi è uno stimolo in più per andare avanti. Vi ringrazio per essere stati con noi in questa puntata, spero di avervi presto ogni qualvolta, insomma, voi organizzate qualcosa di sportivo e della Montepè, di essere presenti anche effettivamente a qualche gara che voi organizzate. Cos'altro dirvi? Andate avanti così, perché comunque si fanno delle cose belle, non si parla dei giovani solo per la droga, per la delinquenza, ma si parla di giovani invece che si impegnano in cose costruttive. Grazie ancora a Daniele Adamo e alla sua associazione. Grazie. Allora, parlavamo di siamo quasi all'ora di pranzo, le massaie si apprestano a cucinare qualcosa. Se sempre la regia mi fa la gentilezza di abbassarmi un attimo la musica in cuffia, volevo indicarvi oggi di mangiare delle paste con le sarde. Perché vi dico questo? Perché ogni tanto il pesce azzurro fa bene, la carne rossa mangiatela una o due volte a settimana, ma il variegare il cibo comporta anche un corpo più sano, nella mens sana, dicevano i latini. E allora io oggi vi invito ad andare dal perito ittico del Meglio del Mare, che è una persona eccezionale, ha tre punti vendita, 2 a Cefalù e 1 a Castelbuono. Intanto vi prepara dei sughetti con pesce spada, ma anche con delle acciughe, già pronto, già preparato. Arrivate a casa, vostra moglie cose, io questo non cucino, sono stato, non c'è bisogno, mettete sulla pentola, fate la pasta e la condite già col sugo bello pronto, e questa già la dice lunga. E che gusto, ragazzi! E poi le spigole orate, i calamari, le insalate di mare già preparate, i sughi pronti, e poi gli involtini di spato, insomma c'è tutto quello che vi serve per un sano pranzo o una sanissima cena. Cosa dovete fare? Null'altro che andare a questi indirizzi, dove per esempio dovete andare a Cefalù, a piazza Cristoforo Colombo, dove c'è un punto vendita, oppure d'ambulante, abbiamo anche quello, in via San Pasquale, lo trovate lì all'angolino, sempre a vostra disposizione. A Castelbuono invece lo trovate in via Vittorio Emanuele al numero 4. Ragazzi, buon pranzo e buona cena con il perito Ittica del Mare, il meglio del mare. Un altro saluto va a Easy Chic di Spaldino Nunzio, lo trovate in via Fonte di Camargia, via Geraci, perché lì trovate tutto quello che necessita per la vostra casa. Ma la cosa più importante, oltre alle stufe, oltre al pellet, che adesso comincia a consumarsi meno perché la bella stagione sta arrivando e alle porte, ci auguriamo che riscaldi finalmente, ma perché ha un assortimento straordinario di lampadari di ottimissima fattura, con lo sconto, pensate, del 50%. Io mi fermerei un attimo, darei la linea alla regia, perché ho bisogno di riprendere un po' fiato per ospitare gli altri ospiti che sono in studio oggi. Giornata è pienissima. Grazie ancora al presidente Adamo, buon lavoro, e linea alla regia. I guess it's funnier from where you're standing, 'cause from over here I miss the joke. Clear the way for my crash landing. I've done it again, another number for your notes. I'd be smiling if I wasn't so desperate. I'd be patient if I had the time. Stop and answer all of your questions as soon as I find out how I can move from the back of the line. I'll be your clown behind the glass. Go ahead and laugh, 'cause it's funny. I would too if I saw. I'll be your clown on your favorite channel. My life's a circus, circus, round in circles, setting out tonight. I'd be less angry if it was my decision, and the money was just rolling in. Thank you. E allora passiamo, eccoci qua, perfetto, siamo rigorosamente in diretta. Abbiamo salutato il presidente Daniele Adamo, un gruppo di ragazzi straordinari che sta facendo questa gara internazionale sempre a Castelbuono, un paese che da questo punto di vista, insomma, in quanto idee non ne mancano. E sta diventando una cosa importante, insomma, a parte la gara podistica di levatura internazionale, a parte tutti gli eventi, il Jazz Festival, Paese di Vino, insomma, Castelbuono è un paese che nonostante la depressione economica riesce comunque a dare ai propri cittadini, non solo, ma a tutto l'Interland e all'intera Sicilia, un faro che ci possa proiettare in un futuro più sereno. Cambiamo pagina, cambiamo argomento, vi assicuro, un personaggio, già lo vedete in televisione, un personaggio che è venuto dal Nord America, in realtà è sicilianissimo, un caro amico, una persona eclettica, straordinaria, affascinante, affabulatore, insomma, lo sentirete adesso parlare. Lui si chiama Ciro, io lo chiamo Ciro, ma devo dire anche il cognome, Andorlina è una cosa, insomma. Lui è un, insomma, dirige già un, cos'è, un pub, lo possiamo chiamare pub? Pub, sì, ristorante, insomma. Avvicinati al microfono per piacere, Ciro, perché se no non si capisce quello che dici. Qualche anno fa l'abbiamo avuto già ospite in trasmissione, però a me piace averlo spesso, perché comunque, vi ripeto, l'anno scorso, con gli Inside Hall. Ecco, perfetto. Allora, tu invece quest'anno ti sei messa la bandana, ti sei messo i camperos, per far cosa? Per parlare di cosa? Di pace. Sì. Ma perché abbiamo un Papa che parla di pace, perché c'è San Francesco che ha influito sul Papa, cioè da cosa ti nasce questa idea, questa voglia di avere tutta, ma cioè, lui, di parlare di pace? Lui è un personaggio che mi sta mettendo ancora un po' di curiosità, ancora non parlerei di Papa. Sì, più o meno facciamo la stessa cosa che fanno loro. Cioè, noi parliamo di fraternanza, parliamo di libertà, parliamo di amore, ecco. Ho capito. Quindi parliamo di pace. Ed è quello che faremo nelle piazze italiane. E iniziamo appunto da Castelbuono martedì prossimo. Abbiamo chiesto un incontro a Piazza Margherita. Il telefono, sì. Ok. E a Piazza Margherita, appunto, martedì alle 18. Cosa andremo a dire alla gente? Scusa, mi hai detto prima fuori onda che vuoi partire da Castelbuono perché guarda caso è un paese che ti affascina, insomma. Sì, è una piazza che non ho mai vissuto, ma ne ho sempre sentito parlare. E partiamo da là. Poi in realtà siamo partiti da Montemaggiore, da Alia, da Cerda, da Limenusa, perché quindi vuoi coinvolgere un bel locale, po' di... sì, il locale il mio è un locale politico, ecco, è nato con il simbolo della pace, quindi con Gandhi e con altre gente, è chiaro. Cioè, quindi, dopo Castelbuono, parte da là. Castelbuono è perché abbiamo aspettato un po', perché speravamo che qualcuno ci rappresentasse, questo non è successo, quindi adesso la parola al popolo. Ecco, sarebbe il caso, insomma. L'ha detto qualcun altro questa cosa, un certo Beppe Grillo, insomma, ma è anche giusto. Ma guarda, lui si è infilato in un contesto che secondo me non gli apparteneva, se parlava di queste cose. Si è infilato in un contesto politico, quindi si è infilato dentro un fallimento, ma non siamo qui a parlare di lui, perché cioè io ho della politica, di altro genere politica, perché a me non interessa, non leggo i giornali, non ho la televisione a casa, quindi io vivo la quotidianità, vivo la quotidianità, io sento il lamento della gente, quindi non ho bisogno di parlare di o andarmi in una cosa che non mi riguarda. Allora Ciro, ascolta, siccome noi siamo già giunti alle 12.30, io all'una e 5 massimo devo chiudere perché ho poi il GR, dopo Castelbuono qual è la tappa successiva che ti sei prefissa? Noi faremo Castelbuono, poi dobbiamo decidere se fare Petralia o fare Cefalù, per poi Termini e poi tutte le piazze palermitane, ecco. Quindi stai coinvolgendo un po' le altre catanese, piazze, sì, ma anche oltre Stretto. nel senso mi sono messo un po' in contatto con degli amici, con tutte le, mi sto mettendo un po' in contatto con tutte le associazioni, le ARCI e tutti quanti, ecco. Cioè vuoi fare un movimento, vuoi fare un movimento trasversale, ma che coinvolga un po', certo, non soltanto l'apparato regionale, certo, a livello siciliano, ma anche a livello nazionale. Ti fermo, quindi ti facciamo tanti auguri per questa nuova iniziativa, che sicuramente parla di, una, di un aspetto bello della vita, che è la pace. Senza la pace purtroppo non c'è futuro. Invece ho il piacere, tu me l'hai portato qui, è un tuo carissimo amico. Sì, perché lui, loro sono in, è un... loro sono dei miei amici. Adesso lo... giovanissimi, ed è gente che mi dà tanto, perché poi copre un angolo. Ma loro hanno suonato con un Sortolano che un... adesso ne parliamo, bravi, non mi anticipare, sono bravi, le domande. Sono bravi e saranno con noi, saranno, quando per loro sarà possibile, mi affiancheranno aprendo un po' con un po' di musica gli incontri che faremo nelle piazze. Ok Ciro, allora io ti fermo perché è giusto introdurre l'altro ospite che tu hai portato, un caro amico tuo. L'ho definito un po', quando è entrato ho detto tu sei la copia esatta di Caster, a parte che ha tutta la barbetta, ma se avesse il pizzetto sarebbe Caster, capelli ondulati sul biondo, anche Caster era così. Allora, vi presento Alessandro Dio Guardi, già il cognome insomma la dice tutta, ma poi tu hai qualcosa di Dio nel viso, no? Un po' questi capelli lunghi, sciolti, diciamo che mi chiamano tutti Gesù. Questo... modesti a parte. Esatto. Beh, allora Alessandro è un musicista, è un ragazzo impegnato in molteplici attività, ha un suo gruppo, lo diciamo subito, si chiama Doppio Malto. Quando avete fondato il gruppo, ragazzi? Allora, innanzitutto quando nasce il gruppo Doppio Malto? Ecco, il gruppo Doppio Malto, siamo un duo. Ah, ecco. È un duo acustico, due semplici ragazzi che si incontrano un giorno come e decidono di improvvisare insieme con le chitarre. Io sono anche l'armonica, eccetera. E improvvisando, un vediamo. Stile country anche... americano, sì. Sì, anche, ecco, anche se andiamo molto più sul blues. Siamo amanti. Tu sai quanto io amo il blues, insomma, lo dicevamo prima fuori onda. Quindi nasce questo duo, vi siete già esibiti su network, siete stati su alcune piazze, come vi siete evoluti? Siamo stati, poi dopo questa scoperta, abbiamo fatto molte serate in pub dal nostro caro amico Ciro, o nelle piazze, eventi privati, riscuotendo sempre, devo dire, grande successo. Tu ci hai portato un CD, io gradirei che la regia mandasse in onda il primo brano, ne abbiamo selezionati due mi pare, no? Hai dato due tracce alla regia, al fonico. Sì, il primo brano, ecco, che è il brano nostro, il primo singolo. Che si chiama? Si chiama Giallo, Rosso e Verde. Insomma, il semaforo di per sé. Ecco, il semaforo non solo, perché sono anche colori che esprimono, parlano di pace. Giallo il sole, rosso l'amore e verde la natura. Allora, come si titola il brano? Giallo, rosso e verde. Giallo, rosso e verde. Non c'ho voglia di partire e di non ritornare, ho voglia di curare, di sporcarmi le mani, dipingermi il furgone con faccine e fiorellini, andare in giro per il mondo senza destinazione. Dividere una birra o qualche fiore naturale, sorridere e socializzare senza farsi beccare. Ho e gridare pace, amore, libertà. Che bello sta sdraiato in tranquillità. Dai, parti insieme a me, vedrai ti piacerà. C'è un mondo naturale dietro questa città. E allora spogliati con me e uniamoci alla folla. Coloriamo la nostra pelle di giallo, rosso e verde. Preparati a cantare, a fare l'amore. Non esiste denaro e nemmeno religione. È proprio un'altra dimensione. E ti giuro è migliore, migliore di me. È proprio un'altra dimensione. E ti giuro è migliore. Che un sogno non è la realtà, ma la vita qua vedrai che peggiorerà. Io non voglio più guerre né catene mentali, non voglio più mafie e centri commerciali, non voglio vedere scorie nucleari che vengono gettati dentro i nostri mari. E linee nel cielo del tutto illegali, ci fottono l'acqua e sali minerali. E gridare pace, amore, libertà. Che bello sta sdraiato in tranquillità. Dai, parti insieme a me, vedrai ti piacerà. C'è un mondo naturale dietro questa città. E allora spogliati con me e uniamoci alla folla. Coloriamo la nostra pelle di giallo, rosso, verde. Preparati a cantare, a fare l'amore. Non esiste denaro e nemmeno religione. È proprio un'altra dimensione. Allora, un brano molto bello, la chitarra mi è piaciuta tantissimo, l'armonica mi ricorda naturalmente la musica country americana, ma anche la chitarra, questo modo, e il soul poi dall'altro, è come il blues, tu sai, tu mi insegni che nasce in Alabama, nel Sud America, dagli schiavi neri che per sopportare le fatiche, insomma, e il sudore si sono messi a fare questi canti e poi l'evoluzione, voglio dire, in Nord America è stata straordinaria. Io amo personalmente, vorrei fare anche un programma per promuovere ancora di più il soul e il blues. Tantissimi personaggi nordamericani, ma anche qui in Sicilia abbiamo un grande personaggio, Joe Castellano, spesso l'ho intervistato, personalmente lo conosco, e ha una band con 18 elementi che fa sognare davvero quando sale su un palco, perché la musica è il soul e il blues, insomma, viene proprio da quelle terre calde e da quel sudore caldo che grondava viene dal cuore, dalla sofferenza, quindi proprio si sente il pathos, no? dicevano i greci. Senti, tu hai studiato chitarra, hai studiato batteria, hai studiato armonica, oppure sei un autodidatta? Sono autodidatta. Ho iniziato a studiare canto da qualche mesetto, ti posso dire. E hai 21 anni, dicevi. Ho 21 anni, però, non male. E ho già 3 gruppi dietro le spalle, comunque vado girando, mi do da fare. Una volta con la batteria, una volta con la chitarra, una volta con l'armonica. Bravo, bravo. No, cercheremo di invitare quante più persone possibili, no, Ciro? Quando faremo qualche manifestazione anche a Castelbuono, vedo gli amici, sono due dirigenti che adesso vi presenterò subito dopo che finirò di disquisire con voi di Castelbuono, perché comunque annuivano, cioè non è, io posso essere un addetto ai lavori, da ex batterista posso capire un po' di ritmo di musica o di come si suona la chitarra, eccetera, ma sicuramente non sono un chitarrista e non sono uno che suona l'armonica, ma i ritmi, quelli, insomma, la batteria come il basso, tu mi insegni, no? Vanno di pari passo e un po' dentro te li senti, e quando la musica è coinvolgente, è affascinante, entri in un mondo che io chiamo oblio, lì ti perdi nei sensi, sì, infiniti, insomma, esatto, tra le note musicali o le chiavi di violino, quello poi è. Quindi ancora una volta la dimostrazione che i giovani di oggi hanno grandissimo talento, e questa la dice lunga per chi ancora una volta non fosse convinto di ciò. Quindi vai avanti su questa strada, andate avanti su questa strada, ci proviamo. No, no, ma devi proseguire, perché comunque sarebbe un peccato se tu ti fermassi. L'ultima domanda prima di salutarci, prima mi fanno cenno, devo dare linea alla regia per i consigli per gli acquisti, possibilmente, o qualche brano musicale, poi vedrà il fonico quello che c'è da fare. Ti volevo chiedere questo, oltre alla musica, tu fai espliti un altro lavoro, studi, cosa fai? Sì, diciamo che faccio ancora un po' di tirocino, che sono uscito da geometra. Diciamo che sto cercando comunque sia di proseguire nel mio sogno, però un'alternativa me la sto creando, perché alla fine niente è sicuro. Ma non è vietato sognare, però. Ecco. Se ti può essere d'aiuto, perdonami se ti interrompo, sempre con quell'affabulatore, quel grande sognatore che è Danilo Sacco, perché conoscerlo poi personalmente ti trasmette delle sensazioni meravigliose sotto il profilo della sicurezza del futuro, ma quantomeno del diritto di sogno. Lui diceva una cosa sacrosanta, me l'ha detto in dialetto suo, ed era la mamma che diceva: Danilici, nessun artista musicale, nessun cantante, nessun musicista è mai morto di fame, in un modo o nell'altro è sempre riuscito ad racimolare quei 4 soldi che gli consentissero poi di andare avanti nella vita. Io non ti auguro di avere 4 soldi e andare avanti nella vita, sicuramente anche questo fa ben sperare, perché un ragazzo di 21 anni che dice: giusto trovarmi un'alternativa nel caso nel quale non dovessi riuscire in quello che è il mio sogno di fare il musicista, perché poi ne hai le capacità, ne hai le qualità, ma vorrei avere anche un futuro sereno sotto il profilo economico. Sentici, Alessandro, Dio ti guardi davvero, perché sei un bel ragazzo, è detto da un uomo, insomma, non pensate male, ma è la realtà dei fatti, è un bel ragazzo, è un ragazzo dalle idee chiare, fa musica, quindi sicuramente sarà straordinariamente bello dentro, oltre che fuori. E l'augurio che io ti faccio è quello che i tuoi sogni possano diventare un giorno realtà, te lo dico con tutto il cuore. Ti ringrazio veramente. Alessandro Dioguardi, grande musicista, sicuramente lo diventerà, portato da un altro grande che è Ciro Landolina. Vi invito tutti quindi a partecipare a Castelbuono a questa manifestazione per la pace, che si prolungherà poi come un serpente per tutto l'Italia. Ci devono seguire su Facebook anche, ecco, sia sulla pagina di Ciros Defendemos l'Allegria, che sulla pagina Doppio Malto. Grazie ancora a Ciro Randolina e ad Alessandro Dioguardi, e chissà che un giorno, Dio guardando, non ci faccia incontrare e che non si possono fare delle cose ancora belle, soprattutto per voi che avete un avvenire grande davanti. Tanto. Auguri, in bocca al lupo, ragazzi. Grazie a voi, linea alla regia. E allora, rieccoci in diretta, prima di abbassiamo la musica sempre in cuffia, grazie ancora agli ospiti che sono stati straordinari, Ciro Randolina e poi Alessandro Dioguardi, che insomma è un nome che potrebbe avere fortuna nella vita, è un bel nome, veramente un bel cognome, potrebbe avere tantissima fortuna, perché comunque è un ragazzo in gamba. Volevo darvi qualche suggerimento ancora, volevo salutare, dare il ben ritrovati al studio della dottoressa Domizia Di Fazio, la trovate in via Sant'Anna al numero 8 bis. Perché? Perché si occupa di ortodonzia, ed è importantissimo questo, e poi di odontoiatria, è uno studio bivalente. La dottoressa Domizia Di Fazio è odontoiatra, laureata naturalmente, specializzata in odortodonzia, per cui per qualsiasi necessità voi abbiate andate in via Sant'Anna al numero 8 bis e trovate lì la dottoressa Domizia Di Fazio che ha comunque la competenza giusta per curare i vostri denti e non solo. Poi vi ricordo la parafarmacia della dottoressa Guardì, dove trovate le firme più prestigiose, Aveno, prodotti per il corpo, per gli sensibili, oppure l'integratore di vitamina Mix, Junior e Papa Reale, esclusivista Roche, cosmesi, viso, corpo, anti-rughe, anti-viso e anti-età, per la donna ma anche per l'uomo, prodotti per l'infanzia e poi presidi sanitari anche a Nolo, sedie a rotelle, stampelle, eccetera. Ricordate quindi parafarmacia, dottoressa Guardì. Cambiamo totalmente pagina, grazie a questi sponsor senza i quali non sarebbe possibile fare questa trasmissione, lo dico sempre perché insomma i soldini poi con i tempi che corrono non è facile averli. Allora, abbiamo parlato di Mountain Bike, di un concorso, di una gara internazionale a Castelbuono, abbiamo parlato di pace, abbiamo parlato di musica, adesso parliamo di sport. Con chi parliamo di sport? Con due amici miei, ma due persone comunque che sono dirigenti di questa squadra che sta facendo sognare Castelbuono in lungo e largo, sia in Coppa Italia, se non erro, correggetemi se sbaglio, sia in campionato. Prima assoluto in campionato, di prima categoria, quindi se la cosa continua di questo passo si rischia bene, si rischia bene di andare in promozione, e lì ci sono dolenti note le situazioni. Comunque è una bella cosa. Ringraziamo intanto il presidente che ha concesso a questi due dirigenti, che sono Carlo Vetere Carlo e papà, è una cosa che ogni tanto mi sfugge, Ivano, sì, ma non cambia nulla, soltanto il nome, ma tanto tra te e papà. E poi anche lui è figlio di un mio carissimo amico, una persona che stimo moltissimo, ma è un ragazzo straordinario, e vi accorgerete nel futuro, soprattutto che vive a Castelbuono, farà dei proseliti straordinari. Dunque, il dottor Prestianni, la posso chiamare dottore perché so che sei un neolaureato, vogliamo sapere in quale disciplina ha preso il dottorato? Sì, mi sono laureato 2 giorni fa, sì, in scienze politiche, corso scienze dell'amministrazione. Bene, bene, bene, insomma i ragazzi cominciano a essere, sei il più giovane dirigente di sportivo che abbiamo. La polisportiva castelbuonese. Benissimo, benissimo, allora entriamo nel vivo della discussione, cominciamo con Ivano naturalmente, perché tu sei molto più pagato, tranquillo. Ivano invece è un vulcano in escandescenza. E volevo ringraziare il presidente Fabio Capuana, perché insomma si è trovato l'altro giorno in una situazione un po' imbarazzante, ne parliamo tra poco, però dobbiamo parlare di questa squadra, di questi tifosi che accompagnano la squadra fuori, è una delle pochissime squadre che ha un proseguito di... è l'unica, ecco, con dei canti, tamburi, insomma, bene, bene, bene. E tu ne sei testimone. Beh, io sono un tifoso di quella squadra, non lo so dire, ma lo dico perché vivo a Castelbuono. Di fronte al campo. E poi abito di fronte al campo sportivo. E il pomeriggio non mi fanno riposare, ma lo faccio con piacere, perché voglio dire, una volta tanto si può anche fare questo sacrificio. Grande squadra, grandi giocatori, ma secondo me, a parte i giocatori che sono valenti, io li conosco ormai, li seguo, abbiamo un ottimo centrocampo, una discreta, non buonissima difesa, però insomma i due poi mettendoli insieme si danno una mano e fanno sì che la squadra regga. Senti, quanto conta la tecnica che ha messo in campo il mister? Mister, tu sei senza voce, perché poi lo diciamo, perché insomma allora. Il mister, diciamo che da quando è arrivato a dicembre, a parte ieri tra Coppa e Campionato, ha fatto qualcosa come 13 vittorie di fila, quindi già un record assoluto. Quante giornate mancano alla fine del campionato? Mancano 3 giornate, quindi possiamo, non diciamo ancora per scaramanzia, no, però insomma siamo sulla buona strada, siamo sulla buona strada, Filippo, sia per vincere questo campionato di prima, per cui abbiamo programmato tutto circa 3 anni fa insieme al grande presidente, e già ci troviamo in semifinale di Coppa Sicilia. Ricordiamo che l'unica squadra palermitana rimasta in lizza. In lizza, quindi tanti record veramente straordinari, ragazzi. Prima in classifica, nella prima categoria, con la possibilità, mettiamo sempre il condizionale perché sennò nel calcio tu sai che è molto strano. Ieri però c'è stata una partita che è finita 2-2 con la squadra del Catania. Ritorno con la Massimiliana Calcio di Catania. Benissimo, abbiamo superato il turno. Sì, sì. Quindi siamo ancora in corsa in Coppa Italia, sebbene 3 espulsi, anzi 6, 3 da una parte e 3 dall'altra. Sì, è stato un pochettino... Ecco, allora, andiamo a... Io ho sentito per telefono il presidente, il quale non, giustamente non si è voluto sbilanciare, perché, ripeto, è una persona che deve stare un po' in bilico, perché sennò rischia... Sopra le parti. Sopra le parti, per ottimi motivi. Perché sa... Però volevo chiedere a te, ieri ti ho visto un po', non solo tu, molti erano esagitati, ma tu in maniera particolare. Allora, volevo volevo capire cosa fosse successo in campo per esserci stati 6 espulsi, 3 e 3, e poi la cosa è proseguita fuori di tutto con lo scorta dei carabinieri che hanno scortato la squadra del Catania fuori dalle porte di Castelbuono. Che è successo? Vorrei tranquillizzare tutti quanti, anche chi le cose li riceve e non li vive in prima persona, che ieri di grave non c'è assolutamente nulla in campo, a parte le espulsioni che sono state, per quanto riguarda 3 per doppio cartellino giallo, mm-hmm, e altre 3 quindi per interventi fallosi di un certo tipo, non si è tirato fuori il niente di eclatante. Purtroppo sono venuti con l'intenzione di nervosirci, particolarmente un loro giocatore che ci è riuscito benissimo in questo intento, perché dal punto di vista tecnico in campo non c'è stata partita. Voi eravate superiori nell'andata, dove lì abbiamo, diciamo, quasi chiuso il discorso di qualificazione, e nemmeno ieri se vincevamo con 2 gol di scarto non rubavamo nulla, e tutto ciò è stato, diciamo, figlia questo nervosismo da questo atteggiamento provocatorio che ha tenuto un loro giocatore, ma tutto si è chiuso lì. Poi giustamente, essendo come dicevi tu, siamo una squadra che anche quando gioca in coppa ha un certo seguito di pubblico e dà il massimo, si impegna, però sono stati fino ad oggi corretti, anche ieri non è stato fuori, si sono un po' di parapiglia, ma nulla di che, nessuno è stato toccato e hanno chiamato i carabinieri per una loro, per essere sicuri. Ma tu avrai gridato abbastanza. Tutto a posto. Ma io canto, voce. Quindi lui è il trascinatore, ragazzi, e insomma, e poi è anche di stazza, 1,90 m, ci sei, 1,80 m, quanto sei? 1,91 m. 1,91 m, quindi oltre alla bandiera che si vede sventolata parte di qualche piccoletto, insomma, la vera bandiera lui. Allora, grazie intanto a Ivano per averci esposto i fatti che si sono verificati ieri. Nulla di grave, c'è stato sicuramente l'intento di innervosire la squadra di casa per evitare che potesse passare il turno, così grazie a Dio non è stato. Anche come riportano oggi le cronache dei giornali, tutto tranquillo, regolare. Beh, bisogna essere anche responsabili, perché torno a ripetere, abbiamo un presidente che ha delle responsabilità, assolutamente, bisogna pensare anche a questo, bisogna rispettarlo nel suo ruolo sia come presidente sia per quello che fa nella vita. Volevo un attimo sentire anche il dottor Prestiani, adesso che si è anche maturato con la laurea, non onoris causa ma studiando, per senso della parola. Senti, tu che sei, a meno da chi ti conosce all'esterno, io conosco papà, è una persona molto mite, molto serena, eccetera, ma una persona come te, graziosa, carina, sembra un classico filosofetto, professore di matematica, no? Si presta bene, insomma, sei un ragazzo che io stimo molto, a prescindere dall'amicizia che possa esserci tra me e la tua famiglia. Come ti sei trovato all'interno della polisportiva? Perché ti piace il calcio? Perché vuoi dare un contributo personale tuo verso la squadra del tuo paese? Qual è stata la molla che ti è scattata dentro? Io lo ringrazierò per sempre il presidente, mi ha dato questa opportunità di fare parte, perché lo definisco, ma Fabio è straordinario, una vera famiglia, in quanto ogni elemento dà l'anima per questa squadra, per questa proprio è una famiglia. Si vince, sì, abbiamo ottenuto risultati magnifici. Io faccio parte da poco, da febbraio, che ho questa fortuna, quindi ragazzi come Ivano, come Michele Cammarata, che hanno affrontato il problema 3 anni fa, hanno fatto un traguardo impressionante. Si spera di... Ti faccio una domanda, sì. Ti blocco perché mi è venuto a spontare. Secondo te, lui è ancora un po' nervosetto con la squadra, no? No, dico, no, con Ivano mi posso permettere di scherzare, perché insomma c'è un rapporto di stima personale. Cosa contraddistingue il tifo castelbonese? Cioè, cosa hai in più? Qual è questo quid che scatta nei castelbonesi, a differenza degli altri comuni, anche vicinori, voglio dire, quindi sangue caliente come noi, per forza nordici? Invece Castelbuono sta dando... C'è da dire che a Castelbuono si respira proprio una voglia, un'aria di calcio, di passione infinita, che ha stravolto quest'anno specialmente per i colori granata. Si vede appunto, perché è stato da 30 anni che manca la promozione a Castelbuono, quindi sono stati anni mortificanti per gli sportivi castelbonesi, sono trovati senza un punto di riferimento, e infatti vedere il campo pieno è qualcosa di spettacolare, oppure vedere 50 persone da Castelbuono che spingersi verso paesi che Cimin, che diciamo non sono proprio, non è dietro la porta, non è dietro, non la, non po- dietro la porta, o a Catania infrasettimanalmente avere un autobus pieno di gente che arriva là e si fa rispettare, fra l'altro non peste piede a nessuno. Una domanda a tutte e due, perché Big Ben sta dicendo stop, però abbiamo già parlato di quello che è successo, che siamo già in Coppa Italia, stiamo proseguendo, si vedrà con i tre espulsi come possiamo fare, ma sicuramente abbiamo, ce la farete. Una rosa abbastanza ampia, cioè, abbiamo una rosa che è un rosario abbastanza ampia, che ci consente e vi consentirà naturalmente andare avanti. Prima di chiudere, una domanda a tutte e due, cosa vi aspettate da queste tre giornate? Saranno tre battaglie impressionanti, perché ancora appunto non c'è niente di scritto. Poi tra l'altro la prossima già a Castellana, loro non sono ancora spacciati, lottano per restare in prima categoria, quindi troveremo un ambiente osso duro. Però c'è il campo in erba sintetica, i nostri giocatori specialmente alcuni sono fenomenali, quindi secondo me espugneremo senza problemi Castellana Sicula. Ivano, cosa sei disposto a fare o cosa i tifosi faranno secondo te non appena ci sarà, usiamo sempre i dovuti guanti di velluto, riuscire ad arrivare alla soglia della promozione? Ma già come tifoseria stiamo organizzando qualcosa che rimarrà per sempre nelle pagine calcistiche castelbonesi. Non voglio togliere la sorpresa a nessuno. Lasciamo la suspense. Sì. Io sarò sicuramente coinvolto in questo. E sabato cosa. Prossimo invito tutti gli sportivi castelbonesi ad essere al campo, perché c'è lo scontro diretto col Casteldaccia. Quindi mi raccomando, sabato prossimo scontro diretto col Casteldaccia. Gli amici di Castelbuoni, i tifosi, gli amanti tutti, dei colori granata sono pregati di essere al campo. Benissimo. Io ringrazio intanto il dottor Prestiani per essere per essersi prestato a questa intervista, sebbene succinta, ma io ci tenevo perché insomma bisognava fare chiarezza sui fatti che si erano svolti ieri per la Coppa Italia. Sì. E ricordiamo che abbiamo passato il turno, che si è passato il turno, e ricordiamo anche che siamo a tre giornate dalla conclusione del torneo di prima categoria e siamo ancora primi in assoluto, sperando che il futuro non ci riservi brutte sorprese. Grazie quindi all'amico dottor Prestiani, grazie a Ivano Vetere, grazie naturalmente a Filippo e alla radio che ci dà sempre questa bella occasione. Tu sai che le porte sono sempre aperte, l'editore è una persona molto lungimirante e il mio programma poi è a disposizione non solo di chi conosco ma anche di chi non conosco, come ragazzi della Mountain Bike, perché bisogna dare spazio a tutti. Salutatemi di vero cuore la squadra, il mister, perché sono ben comportati, è una squadra che fa volare, fa sognare la fantasia dei propri tifosi, ma un grazie di cuore a tutti quanti voi che supportate tutto quello che c'è da supportare e sopportate tutto quello che c'è da sopportare, ma un grazie veramente di cuore a un personaggio straordinario, o un giovane che ha dato dimostrazione di avere un gruppo coeso, forte, il presidente Fabio Capuano. Grazie ragazzi, in bocca al lupo, grazie. E che vinca il migliore in questo caso. A Castelbuonese. Ciao ragazzi, grazie ancora. Allora, io direi di fermarci qui, sono le 13:05, incombe il GR. Prima di dare la linea alla regia e andare a registrare e andare in onda con il GR, bisogna ringraziare tutti coloro i quali ci hanno ascoltato fino in questo momento, gli ospiti che sono stati tanti oggi, da Daniele Adamo per quanto attiene la Mountain Bike alla prima gara internazionale, a Ciro Andorlina per la pace e Alessandro Dioguardi per la parte musicale e per quello che sta facendo con il gruppo, sono un duo e sono straordinari perché attengono al blues e al soul. E un grazie di cuore naturalmente alla Polisportiva in generale di Castelbuoni, in particolare ai dirigenti Ivano Vetere e il dottor Prestiani che sono intervenuti in trasmissione. Grazie naturalmente a tutti quanti voi per il cortese ascolto. L'appuntamento è per domenica per la differita alle 9:30 di mattina. Naturalmente, se no, andate su Podcast Repliche su www.crmpiredio.it e lì insomma potete sbizzarrirvi su tutto il palinsesto. Se volete seguire Carta e Penna fatelo, altrimenti spaziate come vi pare. Da parte mia, buon weekend a tutti quanti voi, all'insegna del sole ci auguriamo della buona salute per tutti e poi un grandissimo bacio da parte di Filippo Glorioso. Ciao. Abbiamo trasmesso Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Glorioso.